si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. E buongiorno a tutti da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini, buona domenica a tutti. Eccoci qua quando sono le 8:36 minuti di domenica mattina insieme per una nuova puntata di Si può fare insieme fino alle 10, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Carlo, Milano, Monterosa. Esatto, volevo prevenire la tua domanda su Milano Monterosa. Oggi c'è il sole a Milano. Oggi fa piacere parlarne. Sembra, sì, molto bello, molto bello. Perché si che sta poi detto bene. Così sembra che non vediamo l'ora di finire la puntata, perché alle 10 andiamo finalmente ai giardinetti. Inizia il nostro weekend alle 10 esatto. Di domenica mattina. Ma che comunque finisce venerdì sera, quindi non ci lamentiamo. O perlomeno il mio, scusami Alessio, mi dimentico sempre che invece tu lavori di più. Come lavoro di più? Beh, lavori a Radio 24. Ma tu fai tantissime cose importantissime, sì, ma Carlo. Non qui a Radio 24, per questo lo dicevo. Allora, ascoltatori, non perdiamo il filo. Come ogni domenica mattina noi cerchiamo un personaggio della settimana. Vado a dare il primo indizio, certo, subito. Certo, giusto. Sì, così cominciamo a pensarci un po' su. Ascoltatori, il primo indizio è questo. Il personaggio sta lottando. Il personaggio che cerchiamo, che ha una notizia che lo riguarda di questa settimana, sta lottando. 800 24 00 24, anche oggi in palio i biglietti e il catalogo della mostra di Miro al splendido MUDEC di Milano. E quindi aguzzate. Io me lo sono segnato anch'io, perché poi di solito li ridiamo gli indizi. Quindi il primo è sta lottando. Parleremo moltissimo di privacy questa mattina, un argomento che ci sta insomma abbastanza a cuore, tra WhatsApp, le chat sui social network e le telecamere che controllano gli ingressi delle città, perché c'è una cittadina che telecamere ormai ci sono ovunque, ma le sta usando una cittadina dell'Emilia un po' come un coprifuoco notturno. Una ZTL notturna. Ha fatto, insomma, ha sollevato qualche reazione, qualche preoccupazione da parte di alcuni cittadini. Abbiamo una bellissima notizia, sì, dalla Svezia, giusto? Vai Carlo, questo è forte. Una bellissima notizia, in Svezia è stato aperto un nuovo centralino condiviso, ovvero si può chiamare a questo numero che vi diamo anche, che è 0046 771 793 336, e risponde uno svedese a caso, o meglio non a caso, nel senso che sono 3000 svedesi che si sono iscritti a questa app, l'hanno scaricata e quindi sono disponibili come ambasciatori della Svezia. Ovviamente la notizia è in giro da più o meno 24 ore e tutti stanno chiamando in Svezia per saranno vedere. Saranno già più di 3000 secondo me a questo punto gli ambasciatori. Questo non lo so, si può essere che già perché anche gli ambasciatori ci sono di più. Le chiamate sono già state 6000 pare, e mi sembra una cosa bellissima, che sarebbe bellissimo fare anche qua. Anzi, è divertente. Ho la sensazione che qua funzionerebbe quasi meglio. C'è forse il problema della lingua, che molti non sanno l'inglese, che magari gli anziani non sanno l'inglese, ma mi sembrerebbe bellissimo che uno che vuole andare in Italia chiama a caso e risponde Mario il Rossi. Signor Gino, esatto, e gli spiega e gli dice no, guardi ad Anzola c'è la ZTL di notte dalle 11 alle 4 e mezza. E allora andiamo noi ad noi dopo iniziare. Forse proviamo a chiamare anche noi in Svezia. Sì, se c'è il tempo chiamiamo anche noi in Svezia. Assolutamente. Andiamo ad iniziare e riprendiamo il filo della settimana ripercorrendo alcune delle notizie dove è possibile, raccontandovi buone notizie. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle humps, ready to race to you. Allora, partiamo da qua. Tema referendum, si vota domenica prossima, 17 aprile, ne abbiamo parlato anche ieri, nella puntata di ieri, ultimi giorni quindi di discussioni. Avevi se vogliamo promesso anche che di non campagna ne parlavi elettorale, più. Ma infatti non ne parliamo noi, ne parlano Emiliano e Renzi, vai. Votare sì, ad andare a votare al referendum. Lei sta invitando il paese a suicidarsi, detto Renzi, se vince il sì è un suicidio. Se vince il sì il paese rifiorirà con la green economy, con la blue economy. Vogliamo continuare a tirar fuori il gas e il petrolio che c'è? Oppure diciamo che siccome noi abbiamo deciso basta, sapete che c'è? Chiudiamo tutto e andiamo a comprarlo dagli arabi o dai russi. Io sono per non sprecare ciò che abbiamo. E quindi spero che questo referendum, che potrebbe bloccare 11.000 posti di lavoro, fallisca. Aggiungiamo solo che si vota, informatevi, ma insomma la maggior parte di voi, spero, molti di voi lo sanno, si vota su che cosa in particolare? Sulla durata delle concessioni per le trivellazioni petrolifere lungo la costa italiana, una durata che era determinata fino a che è intervenuto il governo Renzi allungandola fino alla fine della vita del giacimento, quindi senza, per sempre, per sempre, senza limite. Le regioni che hanno chiesto il referendum chiedono invece che le concessioni scadano e poi si ridiscutano eventualmente. Posso dire solo una cosa, visto che Renzi diceva non sprecare, io sono per non sprecare quello che abbiamo, che qui in trasmissione, parlando spesso del referendum, avevamo anche esposto una teoria che mi sembrava interessante, il fatto di dire: ma se ce le tenessimo quelle risorse nel caso che un domani ne avessimo veramente bisogno, quando ci sarà una vera crisi energetica, che mi sembrava una posizione interessante. E invece cambiamo argomento, perché con la bella stagione torna la voglia e il piacere di trascorrere delle serate all'aperto, bevendo birrette e parlando anche fino a notte fonda con gli amici, facendo magari anche un po' di schiamazzi, sì, un signori. Po' di casino di notte, ci sta, viva Dio! Però attenzione, perché in molte città tornano le ordinanze dei sindaci contro la movida notturna. A Parma chiusi 4 bar, cioè chiusi, scusate, non chiusi, non possono vendere alcolici dopo una città. Ora, 4 bar, solo 4 bar, un'ordinanza ad bar, si potrebbe dire, e anche qui discussioni ad Anzola dell'Emilia. Tra poco lo sentiremo, il caso del coprifuoco notturno che fa discutere. Sentiamo le voci dei baristi delusi di Parma. Una perdita economica incredibile, facendoci due conti di 2 settimane di ordinanza ci siamo arrivati a rimettere quasi 10.000 euro pagando anche gli avvocati. Nel resto della via si può continuare a bere tranquillamente, quindi non è che limiti il consumo dell'alcol o risolvi un problema di degrado, semplicemente lo stai spostando di qualche metro, una limitazione inutile direi. Perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo? Loro gli ebrei e i cani non ce li vogliono, ognuno fa quello che gli pare, Gesù, Là c'è un negozio, là c'è un ferramenta, no? Loro per esempio non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. E cosa? Là c'è un farmacista, no? Vietato entusiasmarsi, vietato battagliare, non avrai mica in testa di cambiare il mondo. Vietato immergersi in acque non sicure, vietato rischiare, vietato improvvisare, vietato l'accesso a chi non è autorizzato, che viene prima chi al posto riservato, e vietato toccare, è questione di stile, vietato protestare, nient'altro da dire. Vabbè, l'avete capito, parliamo dei divieti, in questo caso siamo ad Anzola dell'Emilia. Diamo il buongiorno al sindaco della cittadina, Giampiero Veronesi, eccolo qua. Sì, buongiorno a voi, grazie, buongiorno. Buongiorno e buona domenica, sindaco. Allora, lei ha deciso di chiudere all'ingresso delle auto dei non residenti la sua città dalle 10:30 di sera fino alle 4:30 del mattino, una zona a traffico limitato. Notturna però, e qualcuno grida al coprifuoco. Ci spiega la ratio di questa decisione? Certamente, sono 3 le motivazioni, diciamo, pregnanti che mi hanno portato a prendere questa decisione, che ci hanno portato a prendere questa decisione. Il primo motivo riguarda un problema importante di viabilità che il nostro comune avrà di qui a pochissimi mesi. Lo stabilimento più grande a livello mondiale della società sostanzialmente leader nella produzione di sigarette, che è la Philip Morris, si è insediata a poche centinaia di metri dal nostro centro storico, lavorerà a ciclo continuo 24 ore su 24 e quindi purtroppo riverserà anche durante la notte circa 500 persone all'interno, insomma, del nostro paese, così come della bretella confinante. L'altro aspetto è l'imminente apertura del casello della 14, che purtroppo, insomma, riverserà altro traffico sulla nostra cittadina. Lei però ha lasciato per ultimo il motivo che invece sembrerebbe il più importante. No, glieli sto elencando, esatto. Poi passiamo molto velocemente a, diciamo, alla tematica dei furti, che però qui da noi non è, diciamo, peggiore rispetto ad altri paesi. Ed infine l'annosa tematica della prostituzione, che è sostanzialmente anche un riflesso del primo punto. Noi qui in effetti purtroppo Abbiamo in questo senso un record negativo, diciamo, nell'ambito della provincia di Bologna, benché, le dico la verità, insomma, io dopo il mio primo anno di mandato ho fatto anche una prima ordinanza di divieto di sosta di fermata che ha calato la prostituzione di circa il 30-35%, però ecco, detto questo, il restante 65-70% lo abbiamo ancora lì. Quindi queste sono le motivazioni. Ma il motivo più importante, ce lo dica, qual è? Mettendolo in ordine di importanza, perché per esempio la questione ora dello stabilimento della Philip Morris, che tra l'altro sì, occupazione, siamo contenti, ci saranno anche dei posti di lavoro, certo. Quindi è anche una buona notizia se vogliamo, sindaco, però ci sono anche di giorno queste persone che dovranno andare a lavorare allo stabilimento. Lei però chiude di notte, perché di notte ci sono problemi particolari, evidentemente. Dunque, in realtà non è esattamente questo il ragionamento. Io in realtà chiudo di notte perché io non posso permettermi di chiudere il paese anche di giorno, cioè nel senso che... se no lo chiuderebbe anche di giorno? Non è che se no lo chiuderei anche di giorno. Io non posso prevedere oggi quale sarà il flusso di traffico che realmente si riverserà sul tratto stradale di mia competenza. Quindi quando lei mi dice qual è la priorità, se andiamo in ordine di tempo, è chiaro che io oggi ho la prostituzione, che è un problema concreto, è il problema della viabilità che avrò per certo, ma che oggi non si vede. Quindi, ecco, chiaro, quindi che mettendolo in ordine di certezza e di importanza, voi oggi avete un problema di prostituzione, perché nel suo paese è vero che ci sono le lucciole che attirano i clienti anche dalla vicina Bologna, perché voi confinate con Bologna, no? No, guardi, il problema è che noi confiniamo con Bologna e con Modena. Noi siamo l'ultimo paese del bolognese prima del modenese, quindi Modena le spinge fuori, Bologna le spinge fuori e vengono tutte da voi. Questo è un grosso problema, insomma. In realtà, ecco, come le dicevo... Ma la prostituzione però c'è anche di giorno, non è che sia un fenomeno prettamente solo notturno, immagino. Soprattutto se ci sono tutte le prostitute di Bologna e tutte quelle di Modena. No, assolutamente no. Il tratto della Via Emilia interessato dal provvedimento, che è un tratto comunale, non ovviamente statale, di giorno non ce n'è una. Ah, perfetto, mi scusi allora. Niente, ci mancherebbe. Sì, non sono esperto di prostituzione. Resti con noi, resti con noi, che dobbiamo fare la pausa per le informazioni sul traffico, manca fare la pausa, poi torniamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. Di nuovo in compagnia del sindaco di Anzola dell'Emilia, Giampiero Veronesi. Senta, sindaco, io immagino che nella sua città ci siano 12.000 abitanti, ci siano dei ristoranti all'interno del centro che rimarrebbe chiuso alle auto dalle 10.30 del mattino alle 4.30 del mattino, ci siano dei ristoranti, ci siano delle persone che possono ricevere degli amici la sera. Come si fa in questo caso? Bisogna prendere l'autobus per entrare o si parcheggia no. fuori? Ci sono gli autobus notturni? Assolutamente no, ma sì, gli autobus sì, ma non è assolutamente così. Vuole che parta dai ristoratori o dai visitatori? Come preferisce, bravo. Allora, visitatori, facciamo un esempio pratico, così cerchiamo di dare ai radioascoltatori un elemento concreto. Giusto. Io a mezzanotte decido in piena libertà di andare a trovare un mio amico residente ad Anzola. Sì. Bene, entro con la macchina, lo vado a trovare, mangiamo una pizza, ci divertiamo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare e torno a casa, perché la ZTL è solo in ingresso, mai in uscita. Bene, semplicemente il residente manderà un SMS col contenuto della targa del soggetto che l'è venuto a trovare. In questo si risolve, diciamo, il problema dei non residenti, che quindi è un problema inesistente, perché il non residente non deve fare nulla. Ma se il soggetto che viene a trovare è per esempio uno che ha la moglie a Bologna e invece ha l'amante nel suo paese, come la mettiamo? L'amante, non stiamo parlando di prostituzione, stiamo parlando di sane corna. No, ma infatti, le sane corna, ma questo è il tema che mi stanno ponendo in tanti. Immagino. Ma è un falso problema, perché le sane corna si possono continuare a fare, perché quell'SMS che verrà inviato finirà in un database al quale nessuno ha accesso, se non come il database degli amanti di Anzola, se non come avviene nel nostro paese ormai da molti anni a polizie e carabinieri, nel caso in cui ci siano, che ne so, omicidi, che spero non avvengano, certo, qualunque forma di reato. Però in generale quando si va dall'amante non ci si tiene moltissimo a comunicare la propria targa in giro. Non vorrei allora che... guardi, le rispondo così. Sì. Non so come funziona la ZTL qui, le dico qui a Bologna. Sì. Lei di giorno vuole andare a trovare la sua amante in centro a Bologna, ma non è residente. Sì. Bene, lei deve entrare in un garage a pagamento, quindi pagare, deve compilare un foglio in cui non solo mette il numero della sua targa, ma mette nome, cognome e suo indirizzo. Quindi attualmente nel comune di Bologna... Attualmente lei... conviene avere l'amante ad Anzola. Decisamente sì. E questo è un'ottima notizia. Di giorno no, sì, di notte un po' meno. Io invece le volevo chiedere un'altra cosa, le volevo chiedere. Nel senso, capisco le motivazioni. Io sì. Mi chiedevo se non c'è il rischio che blindando la città di notte in realtà diventi un po' un dormitorio, che ho la sensazione che sia in realtà più pericoloso. Io personalmente penso che se invece le persone passano, magari uno anche che a mezzanotte non del paese vuole bersi una birra sulla panchina, in realtà renda un paese più vivo, però forse mi sbaglio io. Quindi mi chiedo, blindare la città non rischia di renderla più pericolosa se non più triste? Guardi, lei si stupirà nel fatto che io le risponda che dice cose sacrosante, però... ma ci mancherebbe. Chi conosce Anzola dell'Emilia, frequenta Anzola dell'Emilia, le può dire con una battuta, ma per rendere il concetto, che se lei viene qui dopo le 22:30 difficilmente riuscirà a bere una birra. Ok. Perché questo paese... Questi paesi, come alcuni paesi confinanti, hanno purtroppo una vita che verso le 22:15, ma anche 22:30 se vuole, ma comunque insomma tende a... Si spegne, però lei così gli dà un colpo... definitivo a questo barlume di vita che c'era dopo le 10 di sera ad Anzola, forse. Guardi, io su questo non sono d'accordo, perché come l'ho detto, chi non è residente entra esattamente come lo ha sempre fatto, tanto più che ho già fatto l'incontro con albergatori e ristoratori. Gli albergatori hanno accolto il progetto con un certo interesse, perché purtroppo sono vittime, gli albergatori che sono sulla via Emilia, della presenza molto forte di prostituzione, quindi è chiaro che per loro insomma l'arrivo del cliente vorrebbe essere un po' più gradevole, quindi hanno diciamo accolto con interesse. Diverso è il discorso per i ristoratori, i quali chiaramente insomma non fanno i salti di gioia, però capiscono insomma l'esigenza e quindi mi hanno chiesto se fosse possibile, e insomma non credo non ci siano grossi problemi a ragionare in questo senso, di spostare l'orario di inizio alle 23, che potrebbe essere tutto sommato una... Anche 23:30. Si entra, si va a cena e poi si esce tranquillamente, questa sarebbe l'ipotesi. Questa potrebbe essere l'ipotesi, sì, va bene. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi ha convinto il sindaco di Anzola dell'Emilia? È una strategia vincente per la sicurezza, ma anche per migliorare la mobilità di questa cittadina, oppure no? Noi ringraziamo Veronesi, buona domenica, grazie mille sindaco. Mi fate dire un'ultimissima cosa? Sì, in due secondi. In due secondi, non è ancora deciso nulla, abbiamo ottenuto un preparere dal ministero, dobbiamo ottenere un parere definitivo, quando anche lo tenessimo definitivo devo fare 15 incontri pubblici, prima di averli finiti non si decide niente, se c'è la ringraziamo per questa precisazione, perché mi sembra molto onesta e corretta. Sì, sì, sì. Grazie. Allora, il sindaco però si è mangiato gli ultimi secondi che avevamo a disposizione per far intervenire gli ascoltatori, e quindi Michele da Bergamo e Giuliana da Pavia, abbiate pazienza. Beh, la vuoi buttare sulla casta? Non mi sembra elegante, Alessio. Potrete parlare soltanto dopo il giornale radio delle 9. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci qua di nuovo con Si può fare, cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Allora, WhatsApp ha deciso di criptare i messaggini che ci scambiamo nella sua chat, il gruppo che appartiene a Zuckerberg. a Facebook. È una buona notizia, per amor del cielo, però pensavo che già prima fosse così. Cioè, prima invece WhatsApp poteva leggere tranquillamente quello che io e te ci scrivevamo. Sì, non è che poteva leggere i nostri segreti. È che se voleva leggere era in grado di leggere. Adesso, anche se decide di leggerli, sono crittografati come Telegram. È un modo anche di inseguire Telegram, che è un'altra, esatto, che è un altro social di messaggistica. La privacy diventa la nuova frontiera della concorrenza tra i giganti del web, insomma, delle app. E però, insomma, qualche domanda ce la facciamo, perché non è che si va a creare un altro caso Apple FBI anche in questo caso qui, cioè chat aperte per tutti, terroristi, tanto nessuno potrà più criptare. Chat a prova di ministro, cioè se io devo raccomandare qualcuno invece di fare una telefonata, scrivo su WhatsApp, tanto criptata. Esattamente, sì, in realtà in quel caso se qualcuno prende in mano il telefono del ministro può leggerlo, è semplicemente una questione, almeno, ma comunque adesso lo capiremo. Scopriremo meglio, esatto, con un grande ospite, il segretario generale dell'Authority per la Privacy, Busia. Intanto, allora, ascoltatori sul gioco, perché cerchiamo un personaggio della settimana. Abbiamo detto come primo indizio che sta lottando all'800 24 00 24. Ci ha chiamato Michele da Bergamo. Tra poco facciamo anche il riepilogo delle notizie, però prima Michele, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Io avevo pensato dal primo indizio all'attore Michael J. Fox, sì, perché sta lottando da decenni ormai contro il morbo di Parkinson. Assolutamente. E c'è una notizia che lo riguarda in questa settimana? C'è una notizia che lo riguarda in questa settimana, almeno che io ho letto, che sembra, e questo mi spiace tantissimo, che, così è stato detto, stia perdendo la sua battaglia. Ma ovviamente io spero proprio di no. Per noi lui tutti lo speriamo, sono tanti anni che Michael J. Fox sta lottando effettivamente contro questa malattia. Michele, non era lui il personaggio. Grazie. Ma siamo contenti di aver avuto la possibilità di dare questa notizia e di ricordare la battaglia che sta conducendo Michael J. Fox contro il Parkinson dal 1990. Antonella da Como, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno. Due. Quasi quasi mi dispiace di aver dato un'altra risposta, perché concordo perfettamente con quello che ha detto l'ascoltatore precedente su Michael J. Fox, che è un grandissimo personaggio, un grandissimo attore. E quindi sarebbe disposta a dire lo stesso nome sapendo già adesso di perdere? Pur di essere... Quasi quasi sì. È un gesto nobile che già comunque la mette in classifica per vincere, sì, il premio, però vogliamo sentire lo stesso. Mettiamo sul piedistallo degli ascoltatori migliori di si può fare, esatto, sempre. No, per l'amore del cielo. Per me è David Cameron, che sta cercando per rimanere attaccato alla sua poltrona. È un'altra lotta. Adesso abbiamo capito. Abbiamo capito perché si è un po' vergognata, voglio dire. Ci sono lotte non e lotte. Condivisibile, eticamente non condivisibile, però immagino che ci siano molti politici italiani che la condividono in pieno. Certo, e per par condicio anche... facciamo perdere anche lei, perché... Ho sbagliato. No, volevo sapere, volevo chiederle perché sta lottando David Cameron, perché magari non tutti si sono a corrente perché di questa notizia. Figura tra i personaggi coinvolti nello scandalo di Panama, e ci sono state delle grandissime manifestazioni di disapprovazione espressa davanti a Londra, insomma, nei posti che lui frequenta. Non so, certo, se sono andati addirittura a Downing Street, però ho visto veramente delle folle al quando hanno scoperto che il papà e lui avevano delle quote in una società offshore nella questione dei Panama Papers. Non l'hanno presa benissimo. Antonella, grazie, ma come ha anticipato da Carlo, in effetti non era lui il personaggio della settimana che andiamo cercando. Però grazie mille, buona giornata. Giuliana da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Da sì. Pavia, sì. Dico il ministro degli esteri Gentiloni, che sta combattendo insieme a tante altre persone naturalmente per avere la verità sulla morte di Giulio Regeni. Sì. Tanto è vero che proprio adesso nel vostro radiogiornale avete detto che l'ambasciatore egiziano si è irritato per il richiamo dell'ambasciatore nostro. Che sta tornando in Italia. Sì, che sta tornando in Italia. La notizia c'è assolutamente, siamo anche contenti di aver potuto ricordare la vicenda Regeni, ma non è il personaggio che avevamo scelto, però la ringraziamo moltissimo di aver chiamato. Grazie, poi dai Gentiloni che lottano, non potrebbe essere, al massimo Gentiloni tratta. No, non è vero, è uno molto sta lottando diplomatico. Però in questo momento in questo momento la questione è diplomatico, ovviamente... ma il ruolo lo impone. però effettivamente mi sembra che l'Italia su questa vicenda perlomeno stia tenendo il punto fermo. La questione è seria. Allora, tra poco riprendiamo con il riepilogo delle notizie. Proviamo a fare il numero della Svezia, il numero di telefono condiviso che se tu chiami ti risponde un centralino che è fatto di tanti cittadini svedesi che hanno aderito a questa iniziativa. Però parli tu lo svedese, Alessio, ti avviso. Paese. Dopo? Dopo il traffico? No. Adesso lo facciamo? Lo facciamo, non so quando lo facciamo, a questo punto lo facciamo dopo il traffico. Vai, col traffico, ti chiamiamo dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. You will soon be connected to a random Swede somewhere in Sweden. This call may be recorded. But Sweden is asleep right now, so you might end up in someone's. Questo è il numero del Swedish number. E dice che la telefonata può essere registrata. La stiamo registrando anche noi. Sentiamo se ci risponde un cittadino svedese che ci darà informazioni sulla Svezia. E soprattutto sentiamo. Sarebbe bello che la domenica non risponde nessuno, perché è un numero per turisti. Adesso scopriamo, scoop, che lo Swedish number non funziona. Che non risponde nessuno. Vabbè, domenica, a parte che a me parlare inglese la domenica già. This is Carola. Oh, hello, is this the Swedish number? Yes, this is a random Swede. Oh, beautiful. I'm Alessio, I'm calling from Italy. Oh, hello Italy. And I'm Carlo, we are calling together, we are two friends. I would like to know the weather today in Sweden. It's very nice. It's sunny outside, but the night was very cold. So è stato freddo. We were hoping for more springtime, but we had a very clear night with stars, so we got cold. Io ho capito pochissimo, ho capito che ha fatto freddo. Faceva freddo stanotte. Excuse me. What's the most beautiful museum in Sweden? I haven't been to all the museums in Sweden, so I couldn't tell you what is the most beautiful one, because that would be the beauty is in the eye of the beholder. One museum. Non conosci tutti i musei, non ce lo sa dire. But one museum that I can visit, one museum, you know, one museum, one, only one. How about the about the ocean in Gothenburg, you have one museum for old sailing ships and old things like that. Museo della pesca. Oh, that's wonderful. Okay, thank you. Yes, that's it is wonderful. Yes, we are calling from Radio 24. We read this news about the Swedish number, and we want to try the number. I'm sorry for my English. I'm not enough drunk to speak English. It's too early in the morning. Grazie, un abbraccio. Thank you very much from thank Italy you very and much. From Radio 24. Ciao. Ciao. Allora, il tempo è bello anche se è freddo. No, già è stato qua. Freddo ieri notte, sì. Oggi invece c'è bel tempo. Il museo che ci ha consigliato è il museo della di Göteborg, no? Delle non ho navi. Ho capito assolutamente nulla, fantastico. Però come ho spiegato, non posso parlare inglese alle 10 del mattino. Però non conosceva niente dei musei della Svezia, quindi questo bisogna. Però è difficile, se uno ti dicesse che museo vado a vedere in Italia, dove inizi? Qualcosa improvviso. Così, dai. Dici Uffizi. Cosa il Cenacolo. Il Cenacolo. Perché alla fine sei milanese. Hai rinnegato le tue radici pisane. Va bene, abbiamo provato, il numero comunque funziona. Funziona benissimo, il tempo d'attesa probabilmente è anche perché devono smistare questa telefonata, perché di questi 3.000 che rispondono potrebbe anche esserci qualcuno che sta dormendo. Due voci veloci sull'inchiesta di Potenza su Tempa Rossa, ministro Boschi e l'onorevole Di Maio del Movimento 5 Stelle, che chiede la mozione di sfiducia che si voterà in settimana contro il governo. Ministro per i rapporti col Parlamento, cioè io, da regolamento, deve verificare e autorizzare tutti gli emendamenti del governo. La Tempa Rossa è un progetto strategico per il Paese e quindi lo rifermerei domattina. Chi vuole mandare a casa il governo Renzi? La minoranza PD vuole mandare a casa questo governo o si vuole tenere la poltrona? Stiamo parlando sempre dei soliti sporchi interessi fatti sulla pelle della democrazia e della libertà dei cittadini. E poi arriva finalmente la banda larga. Il primo presidente del Consiglio Renzi in settimana ha annunciato il piano sull'internet veloce e ha annunciato anche che si parte con la sperimentazione in alcune città, tra cui Bari. Sentiamo Renzi e poi il sindaco di Bari, De Caro. L'Italia ha come obiettivi da qui al 2020 di coprire tutto 100% a 30 mbps, mentre l'obiettivo è quello di arrivare al 50% di abbonamenti che arrivino non a 30 mega ma a 100. Devo dire che ci sentiamo un po' onorati, Bari, una città del sud, è pronta ad accettare questa sfida. Tutti i cittadini in maniera orizzontale, in maniera democratica, riceveranno internet super veloce. Credo che questa per tutti noi è una sfida importante. Allora, la Mission Impossible, sia quella forse di portare la banda larga. Esatto, perché mi aspettavo una musichetta tipo arriva la banda, invece giustamente c'è Mission Impossible. Mission Impossible, adesso siamo in Italia. No, forse la Mission Impossible è quella di tutelare la privacy degli utenti di internet e delle app. E stiamo parlando di WhatsApp in questo caso, che, come abbiamo anticipato, ha deciso di criptare le chat e le telefonate, venendo incontro alla richiesta di privacy che ci sarebbero sul mercato degli utenti del web. Ne parliamo con il segretario generale dell'Authority per la Privacy, Giuseppe Busia, che è tornato a trovarci. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, una buona notizia sicuramente il fatto che i nostri telefonate non sono più leggibili da altri. La prima cosa che le voglio chiedere è proprio questa: prima in realtà WhatsApp ascoltava le nostre telefonate? Il problema è che non sappiamo esattamente cosa faceva con questi dati. Adesso, attraverso la criptazione, le garanzie sui contenuti dovrebbero essere maggiori. Naturalmente restano fuori dalla protezione tutti quelli che sono i metadati, i dati di contorno, che sono ricchi di informazioni su di noi. Perché, come sappiamo, WhatsApp ha l'accesso alla nostra rubrica, quindi conosce la cerchia di nostri conoscenti, sa quando parliamo, con chi parliamo, sa quanto frequentemente parliamo e quanto tempo parliamo e anche che tipo di messaggi mandiamo, perché ci sono i testi, le immagini, le foto, i filmati. Questo dice molto, per esempio, se è un rapporto professionale, un rapporto di amicizia, un rapporto. Quindi una serie di dati restano comunque fuori e sono sicuramente nella disponibilità di WhatsApp. Cosa accadesse prima non sappiamo, è un passo nuovo. Io direi l'elemento importante, quello che si diceva anche prima, è che i clienti interessa. Abbiamo visto Apple che ha fatto la battaglia con l'FBI, abbiamo visto adesso WhatsApp che si sta spostando anche perché ci sono altri concorrenti e cerca di dire offro protezione. Questo vuol dire che i clienti interessa, i cittadini del mondo, perché parliamo di un miliardo di soggetti in tutto il mondo, interessa la protezione. Questo è un bel cambiamento culturale. Questo è importante. Anche noi, quando abbiamo visto questa notizia, abbiamo detto inizialmente: beh, una buona notizia, siamo contenti che i nostri messaggi non possano essere letti dagli altri, figuriamoci. Però sappiamo bene come funziona. Dall'altra parte dei due piatti della bilancia c'è la questione della nostra sicurezza, della possibilità. Lei ha citato Apple, il caso del braccio di ferro tra la Apple e l'FBI, cioè il fatto che si possano intercettare, decriptare in casi estremi, il caso del terrorista o dell'autore della strage di San Bernardino, per esempio, no? Lì com'è finita la questione adesso? Lì è finita che, di fronte al rifiuto di Apple, l'FBI si è rivolta a un soggetto esterno, probabilmente un'impresa israeliana, ed sì, è riuscita a far aprire il famoso iPhone del terrorista. Però anche qui, uno, il fatto che Apple abbia investito globalmente, sia riuscita probabilmente in un'operazione di marketing a manifestarsi come campione della privacy, vuol dire che appunto è un qualcosa che è importante. Sul caso specifico è chiaro che, come accade anche in Italia, come accade per le perquisizioni, se c'è un vaglio giurisdizionale e si cerca di un terrorista una perquisizione, questa si può fare, e si può fare anche sul telefonino. C'è una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che equipara la libertà e telefonino alle libertà personali, alle limitazioni delle libertà personali, e chiede le stesse garanzie, proprio perché sul telefonino c'è un pezzo importante nella nostra vita quanto c'è negli armadi, nei cassetti di casa nostra. Però detto questo, nel singolo caso è possibile, se c'è un sospetto, un sospettato, un terrorista, accedere al suo iPhone, questo secondo un bilanciamento. Quello che non si può, è quello che è diverso, è dire lasciare le porte aperte, costruite. La sentiamo male. La sentiamo male perché probabilmente, giustamente, essendo lei il garante della privacy, ha un incredibile meccanismo anti-intercettazioni, giustamente. Quindi non riusciamo nemmeno bene a sentirla. No, non è il mio meccanismo anti-intercettazioni, che non so quanto sia efficace, anche noi ci proviamo. Ma io però una domanda gliela faccio lo stesso, Busia, è questa. Sì. Va bene la protezione delle nostre chat su WhatsApp e anche in questo caso delle telefonate su WhatsApp, però non è che dall'altra parte ci perdiamo invece molta della nostra privacy nella navigazione, sia su Facebook, nell'utilizzo normale, che sul web? Cioè, concentriamo l'attenzione sulla chat, però in realtà la nostra privacy è svelata, violata, è continuamente messa sotto pressione dal modo in cui noi navighiamo, che viene utilizzato dalle compagnie per fare pubblicità, per entrare nella nostra vita con dei messaggi, con delle promozioni, e poi chissà questi dati, lo sappiamo bene, che fine fanno. Assolutamente sì, assolutamente sì. È quello che questi sedicenti campioni della privacy non dicono, dimenticano di dire. Mentre parlano di sistemi di crittografia che addirittura proteggono verso gli inquirenti, non spiegano come, perché, quanti e quali dati raccolgono per la navigazione su internet. Quindi possiamo dire che è un po' uno specchietto per le allodole questo della criptazione dei messaggi, o sarebbe troppo? Per la lodore, è una risposta a una domanda che c'è. L'importante è che l'opinione pubblica, come sta capendo quanto è importante proteggersi dalle intercettazioni, capisca anche quanti dati regaliamo ai motori di ricerca, a Facebook, a tutti, che è il proprietario di WhatsApp, come tutti sappiamo, e a tutti questi giganti del web, e quindi chieda di più, come chiede adesso protezione di questo tipo, chieda protezione, minore conservazione, minore profilazione, perché i dati sono la ricchezza odierna, sono ricchezza che noi regaliamo dietro servizi apparentemente gratuiti, se gratis il prezzo sei tu, come si suol dire. Allora noi dobbiamo far sì che si acquisti questa coscienza e si richieda e si raccolgano meno dati, perché effettivamente la nostra vita viene è ascoltata anche attraverso la navigazione sul web e attraverso questo. Anzi, giustissimo. Questa è la profilazione maggiore. È verissimo, infatti è anche la questione del gratuito, giustamente, perché uno dice: se volete i miei dati io ve li do anche, però li pagate. Ma le volevo chiedere un'altra questione sulla questione di Apple, nel senso che adesso c'è l'FBI che dice: noi siamo riusciti a leggere i dati del telefonino, però il nostro metodo ovviamente non funziona sui modelli 6 e 6S e anche sul 5S, che onestamente sembra il più grande spot del mondo per Apple. Cioè, tutti diranno: ah, devo cambiare semplicemente telefonino. Ma la vera cosa che io mi chiedo, nel senso che io sono assolutamente a favore della privacy, quindi non penso che si possa entrare dentro nel telefonino nemmeno per un'inchiesta, ma in casi come questo non si può semplicemente dire, senza renderla pubblica la questione, aprire questo telefonino per i 18 morti che ci sono stati e senza farne tanta pubblicità? Non avviene così? La realtà è che è avvenuto così anche con Apple in tanti casi, ed è quello che l'amministrazione Obama sta rinfacciando a Apple, ed è accaduto negli Stati Uniti e altrove. E questo è verità, nel senso appunto noi accettiamo che un sospettato, addirittura non solo un condannato o un imputato, sia soggetto a perquisizioni, non accettiamo che tutti teniamo la porta di casa aperta, perché se serve può entrare la polizia. Esattamente. Perché come la polizia possono entrare anche i ladri, e quindi questa protezione costerebbe troppo. Quindi un altro elemento è che non c'è contrapposizione tra paesi di sicurezza. Le leggi sulla protezione dei dati sono leggi sulla protezione di questa enorme ricchezza, che sono i nostri dati, che è la nostra vita privata, e bilanciano e permettono, quando ci sono casi come questi di un sospettato, di un inquisito, come finora è accaduto, di fare questo. Quindi è chiaro che dietro c'è una enorme campagna anche di marketing, quindi dietro questa battaglia c'è questo. L'elemento buono è che sveglia un po' le coscienze su un problema reale che riguarda le comunicazioni, ma riguarda anche i motori di ricerca, la raccolta su internet e tutto questo. Bene. E questo è un elemento positivo. Teniamo gli occhi aperti su questa vicenda. Grazie Busia, grazie segretario mille, del Garante per la Privacy. Buona domenica. Buona domenica. Allora, grazie. Ascoltatori, 800 24 00 24, anche in questo caso vi chiediamo, vi ha convinto non tanto Busia del Garante della Privacy, ma WhatsApp con questa decisione di criptare i messaggi, quindi di non rendere leggibili i vostri messaggi, quando poi sappiamo che dall'altra parte, sull'altro piatto della bilancia, c'è tutta l'altra questione, il nostro traffico, la navigazione, l'uso che facciamo dei social, certo, che è apertissimo. Sì, soprattutto, ma io devo dire che negli ultimi 10 giorni io sono su Telegram, che è un'altra di queste app di messaggistica, e tutti si stanno iscrivendo a Telegram, e Telegram è famosa semplicemente per questa questione della crittografia. Quindi mi sembra veramente una mossa di dire, vabbè, se lo fanno i nostri competitor, è meglio che lo facciamo anche noi, e visto velocemente. Che tra l'altro noi siamo Facebook, Zuckerberg, esatto. Perché poi WhatsApp è stata comprata da Zuckerberg, e mi sembra una corretta reazione. Copiare e copiare velocemente, in modo che poi non si distingua più chi è stato il primo a farlo. Allora, ascoltatori, all'800 24 00 24, tra poco parliamo di una notizia bellissima, perché un'azienda italiana sta ricostruendo l'arco di trionfo distrutto dall'ISIS a Palmira, e poi verrà installato al suo posto. Antonia da Roma, buongiorno, per il gioco credo. Buongiorno. Eccola, complimenti qua per la trasmissione. Grazie mille. Allora, per me il personaggio della settimana è Simona Ventura. Perché? La faccio più semplice. Sì. Perché sta lottando, è stata ripescata, si trova nell'isola, mi pare, di Playa Soledad in Honduras. Sì. Piange, ha avuto una crisi depressiva, insomma lotta per, vabbè, sta lottando in senso, per il posto. È giusto, ognuno ha una propria battaglia, ognuno ha la battaglia che si merita, anzi direi. È un po' come quella di Cameron, una battaglia per restare attaccata, in questo caso all'isola. La notizia c'è assolutamente, è continuamente in giro, ma non è il personaggio che cercavamo, ma la ringraziamo moltissimo di aver chiamato. Abbiamo Orsolina che ci chiama da Pisa, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, per il personaggio volevo dire che secondo me è Schumacher che si sta svegliando. Sì, ci sono delle notizie ogni tanto che ci rassicurano un po' sul fatto che si stia... la salute di Schumacher stia migliorando, ma soprattutto, non è chiarissimo, soprattutto di ieri c'è una notizia che suo figlio ha vinto a Misano correndo in automobile, quindi in realtà e suo figlio all'inizio correva non con il suo cognome, con il cognome del padre, sì, ma con il cognome della madre, invece adesso corre con il nome di Mick Schumacher. Quella sicuramente è una notizia allegata a Schumacher, ma non era il personaggio che abbiamo scelto. Niente. Ma la ringraziamo molto. Grazie. Hai sostenuto molto bene la notizia di Orsolina, che invece lei era ferma su Michael Schumacher. Invece tu hai dato notizie in più. Carlo, adesso dacci anche un altro indizio. Lo vogliamo dire? Un altro indizio per gli ascoltatori? Molto volentieri. Allora, l'altro indizio è che il nostro personaggio ha scioperato. Ha scioperato. 800 24 00 24, pensateci. Poi andiamo a Palmira. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. scusa alle spalle, sto troppo avanti con tutti quanti Mahatma Gandhi. Io vengo in pace, ma chi tace sbaglia. Basta un amico in un mondo di paglia. Il mulo che raglia e lavora da schiavo. Voglio di più di un amaro lucano. Voglio di più, più stravaganti. Cazzo parli, io sto troppo avanti. Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri? Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri? Sai. E in questo caso sono le aziende italiane ad essere avanti a tutti nella gara di solidarietà per ricostruire le parti distrutte del sito archeologico di Palmira. Perché abbiamo detto, la notizia è questa: l'azienda italiana Apuana, in particolare Tora Art, già lavora per ricreare le opere distrutte dall'ISIS, in particolare l'Arco di Trionfo di Palmira. È con noi Giacomo Massari, uno dei soci della Tora Art di Carrara. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e buona domenica, e soprattutto complimenti per essere in questo momento a fare questa cosa, una cosa storica. Grazie mille, in questo momento siamo un po' avanti, speriamo di rimanerci. Come nasce questa iniziativa? Di non bruciarci il vantaggio, insomma. Sì, esatto. Allora, l'iniziativa nasce, diciamo, a dicembre, quando siamo stati contattati da un'altra azienda toscana, la DC Enrico Dini, che a sua volta era stata contattata dall'Istituto di Archeologia Digitale di Oxford. Questo istituto, diciamo, fa il capofila ad alcune entità enormi, che sono l'Università di Oxford, di Harvard, l'UNESCO, e nulla. Ci hanno offerto questa possibilità, anche perché avevano bisogno di qualcuno che traducesse in materia quello che loro avevano acquisito con milioni di immagini. Il progetto è molto bello perché, cosa hanno fatto? A Oxford hanno inventato queste fotocamere e poi le hanno distribuite ai civili siriani, e loro hanno cominciato ad acquisire immagini dei siti a rischio, principalmente i siti di Palmira. Ah, ma le hanno consegnate ai civili siriani, quindi? Prima che sono diventati tutti altrettanti reporter o archeologi. Reporter, esattamente. Anche un po' geometri, direi, perché mi sembra proprio che prendono le misure, giusto, con queste telecamere, di modo da avere una sorta di ricostruzione 3D di tutto ciò che poi può essere stato distrutto. Esattamente quello che è successo. Quindi queste immagini, poi c'è un database, sì, un archivio enorme, sì, vengono caricate da chiunque le acquisisce su questo database, e poi viene generato un file 3D, che è poi quello che noi con i nostri robot traduciamo. Quindi Oxford, l'Università di Oxford, l'UNESCO, i giganti in questo caso, che sono i capofila dell'operazione di recupero, di ripristino del sito di Palmira, che, diciamolo, da pochi giorni è di nuovo sotto il controllo non più dell'ISIS ma delle forze ufficiali siriane, insomma di Assad, e ci sono anche i soldati russi che girano nella zona. Comunque è stato sottratto al controllo nefasto dell'ISIS. Insomma, l'UNESCO e Oxford si sono rivolti a chi aveva l'expertise. Sono venuti a Carrara, esatto. Da voi, perché voi che cos'è che fate e sapete fare gli unici al mondo, o noi quantomeno siamo, bene? Siamo piuttosto bravi a fare scultura, principalmente. E non ci facciamo molta pubblicità perché spesso i clienti, cioè, diciamo, la riservatezza è quello che ci chiedono i nostri clienti. Cioè, voi la pubblicità un quasi un po' vi... Ma come mai? Ma riservatezza? Riservatezza perché... È stata una bomba, perché praticamente ne ha parlato tutto il mondo. Certo. Ma scusami, ma riservatezza perché voi fate copie di opere e quindi di solito non si vuole sapere? No. Quello, quando facciamo copie di opere, che ce lo chiede il museo, magari i musei ce lo chiedono, certo, per la conservazione, quello sì, diciamo, è piuttosto... No, più che altro quando lavoriamo con artisti d'arte contemporanea, che spesso la paternità dell'opera è la loro, noi le opere. Certo. E poi nei confronti degli altri artisti, perché se passa un disegno a un altro artista, immagino che non ci rimane bene. No, noi è massima la riservatezza. Giacomo, chiariscici una cosa. Sì. Questo Arco di Trionfo di Palmira, sì, che voi state ricostruendo, verrà esposto, è vero, a Londra il 19 aprile? Esatto. Ma poi andrà effettivamente sul sito? È questa la questione? No. No. Quest'arco è una sorta di dimostrazione di quello che si può fare con le nostre tecnologie. Poi lo esporrai tu in casa tua, nel giardino di casa tua. Sì, dopo. Io ho già preparato la base, lo metto qua in giardino e poi farò pagare un ticket per andare su. Ma quanto è grande? Allora, l'arco è 5,50 m. L'originale dovrebbe essere attorno ai 15 mesi. Esatto, infatti questo è una scala 1 a 3 questa, esatto, riproduzione, questa è, questa, perché alcuni giornali invece hanno scritto in scala 1 a 1. Abbiamo letto delle cose un po' qualcuno ha perso, successo, la testa coi numeri, ma la finalità però è quella di ricomporre con l'arco come era una volta il sito di Palmira, allora, oppure questo no? Questo non lo dico io, ma lo dicono i siriani, sì? Cioè i responsabili delle antichità e diciamo i poli museali siriani vogliono ricostruire i due templi e monumenti funerari che sono andati distrutti. In circostanze diverse probabilmente non l'avrebbero fatto, ma dal momento che sono stati distrutti da terroristi adesso lo possiamo fare. Perché c'è un valore diverso, che una rovina che si perde per l'antichità, oppure per l'intervento dei terroristi. Non ci stanno a farsi strappare la memoria da degli atti terroristi, cioè, quindi, mi sembra giusto. Anche a me mi sembra giusto, e quindi in questo caso sareste voi a riprodurre o non è ancora stato caso, in questo caso ci sarà una sorta di task force internazionale, sì, che sarà guidata dall'UNESCO. Ancora noi una volta, certo. Per adesso ci siamo, speriamo di farne parte anche in futuro. Sì. C'è un po' di riservatezza e un po' di scaramanzia, mi sembra di sentire. Assolutamente. Ma voi non siete stati a Palmira, no? Per ora, nessuno. No. Vi basate su questi modelli tridimensionali prodotti dai siriani? Per il momento sì, però dalle immagini che abbiamo visto, diciamo, la mia opinione è che si possa integrare quello che è rimasto in piedi con qualcosa di nuovo fatto da noi o da qualcun altro, diciamo. Ma scusa, ma siccome mi sembra molto tranquillizzante questo progetto di ricreare un'immagine 3D di tutto quello che c'era, perché avevo letto che una delle grosse preoccupazioni era chissà le cose che si perdono e non saremo in grado di ricostruirle. Voi che forse avete avuto la possibilità di vederle, questa ricostruzione effettivamente è totale di tutto il sito di Palmira, quindi si può ricostruire con precisione esattamente com'era, o perlomeno vederlo? Assolutamente sì, se si agisce per tempo assolutamente sì. Quindi ha funzionato questa operazione di dare le telecamere ai siriani? Sì, assolutamente. È una buonissima notizia questa. Bisognerebbe estenderla anche a siti sensibili, come già loro fanno, diciamo. Però anche siti dove, per esempio, penso all'Italia, moltissimi siti archeologici magari. Sarebbe bello creare una sorta di archivio tutto italiano. Grazie intanto per essere così avanti a Giacomo Massari, complimenti veramente, di Carrara. Grazie. Staremo a vedere come andrà a finire per Palmira. Intanto, prima di andare sulla pausa, voglio sentire un ascoltatore, Luigi, che chiama da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione e finalmente una buona notizia dei nostri bravi connazionali che fanno queste cose importanti. Grazie mille. Parecchio il marmo di Carrara. Tra l'altro. Vai Luigi. Certo, con la mia R, il marmo di Carrara. Prego. Allora, il personaggio secondo me che sta lottando è Marco Pannella, che sta lottando contro i suoi tumori, poveretto, il vecchio leone radicale. Ok, ha anche scioperato Pannella, perché questo è il secondo indizio. Direi che è il più famoso scioperatore della fame del mondo, forse. Quindi... Bravo, ma questa settimana però, perché il notaio è molto preciso su questo. Ah, che scusa, non avevo scelto. Deve essere di questa settimana. Non mi pare che abbia scioperato. E infatti, Luigi, mi dispiace, ma è proprio così, non è lui il personaggio. Non è lui il personaggio, ma ne approfittiamo per fare tutti gli auguri del caso a Marco Pannella. E alla sua battaglia, alla sua lotta. Grazie, salutiamo anche tutti i notai italiani. Noi non abbiamo nessun notaio, naturalmente, però la risposta deve essere precisa. Il primo che indovina si aggiudica i biglietti e il catalogo di Miro al MUDEC di Milano. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, non potevamo non farvi sentire però anche la notizia di cui si è discusso tutta la settimana, l'intervista al figlio di Riina a Porta a Porta da parte di Bruno Vespa. Intervista, forse in questo caso è una parola un po' esagerata, diciamo, è stata più una chiacchierata. Bah, non lo so, non ho una posizione così precisa, sì. Nel senso che credo che comunque ci sia il valore di doverla fare, forse, questa intervista. Poi il problema è come, farla, perché sul farla io non ho dubbi. E devo dire che in realtà sicuramente Vespa ha scelto un modo di fare quell'intervista, non l'ha attaccato, non l'ha preso. Però a volte per riuscire a capire com'è un fenomeno, forse il modo migliore non è dire allora lei è un mafioso, perché in quel modo lì ovviamente l'altro non avrebbe parlato. La cosa però veramente è grave, uscito un ritratto, la veramente... cosa veramente grave è permettere a... il figlio di Rina in realtà di firmare la liberatoria solamente a intervista fatta, perché quello vuol dire che in realtà gli dai a lui il controllo, nel senso, se dico delle cose, se mi fai delle domande scomode e non riesco bene a rispondere, oppure rispondo lasciando trapelare qualche cosa, io dopo ho ancora il potere di non firmare la liberatoria. Però insomma, sentiamo un pezzettino di questa intervista. Sentiamo. Il padre diceva che andava a lavorare la mattina e tornava sempre tutte le sere a casa, quindi per me e per noi era un lavoro normale. Certo, poi magari con gli anni, crescendo, ho cominciato a capire che c'era qualcosa di diverso. Ecco, questa risatina, con gli anni abbiamo capito che c'era qualcosa di diverso. Ecco, lì c'è tutto il contenuto dell'intervista e secondo me il modo in cui è stata condotta... L'intervista è agghiacciante, ascoltarlo è veramente agghiacciante. Un modo che senso... lascia molti dubbi. A dirlo chiaramente, ad attaccare frontalmente, cosa che non capita spesso tra colleghi pubblicamente, è stato Mentana... il giorno stesso in cui è uscita la notizia. L'intervista al figlio di Rina viene effettuata soltanto perché il figlio di Rina ha un libro in uscita. Questo si chiama in un altro modo, non è giornalismo verità. Poi, secondo noi, tutto ci sta dentro la televisione. Il problema è quando succede con i soldi che vengono imposti sotto forma di canone nella tassazione, in questo caso in bolletta. Allora, andiamo con Luisa che ci chiama da Milano. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno, buona domenica. Grazie. Su cosa voleva intervenire, Luisa? Sì, volevo dire che per me il personaggio famoso è Bruce Springsteen. Perché? Perché sta lottando in quanto nel suo paese, in North Carolina, sono stati tolti i diritti e l'equiparazione degli omosessuali e non omosessuali, quindi lui ha annullato un concerto. E ha scioperato, ed è questo il motivo per cui la sua risposta è esatta. Esatta, come dice l'applauso. Grazie. In realtà Bruce Springsteen ha fatto un atto dimostrativo, ha cancellato un concerto per lamentarsi soprattutto di questa legge nei confronti delle persone transessuali, perché è molto difficile le persone transessuali, nel senso che possono cambiare il loro documento. Questo succede anche in Italia, solamente a operazione avvenuta e non durante tutta la transizione, che magari dura anni, da quando iniziano a prendere gli ormoni a quando, diciamo, prima di fare l'operazione. Invece solamente a posto per operazione, e questo crea un sacco di problemi per le persone transessuali che sono in questo percorso. Grazie Luisa, complimenti. Grazie. Grazie mille a voi, buona domenica. A lei buona mostra. E a lei appunto vanno i biglietti del catalogo della mostra di Miró al MUDEC di Milano. Beh, insomma, sempre di stereotipi parliamo con Barbie Girl degli Acqua in sottofondo. Parliamo di stereotipi femminili e di principesse che non necessariamente devono avere gli occhi blu e i capelli biondi ed essere bellissime. Una collana di fiabe che viene dall'Argentina e è stata tradotta anche in Italia, sta essendo tradotta in Italia grazie all'opera di Eleonora Lonigro, che è qua con noi, l'abbiamo convocata. Buona domenica. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Buona domenica. Eleonora Lonigro, che è responsabile editoriale di Rapsodia Edizioni e che sta portando in Italia che cosa? Come si chiama questa collana di fiabe che viene dall'Argentina? Allora, questa collana si chiama Antiprincipesse. Uh-huh. vi racconto un attimo come l'ho conosciuta, perché è stata una cosa molto simpatica. Sì. E, è stato un caso più che altro, perché c'è un nostro collaboratore che è argentino e tramite la madre abbiamo avuto questa notizia quest'estate. Solo che è stato simpatico perché io lì per lì ho sentito Antiprincipesse, visto che sono innamorata dei disegni della Disney, pensavo sì. stessimo parlando di le solite principesse, magari che noia facevano... queste principesse, esatto, tutto uguali, Elsa, biondo, sì. però i disegni quelli, e invece la scoperta, una super scoperta, perché appunto sono donne e poi non saranno solo donne che si sporcano le mani per raggiungere obiettivi, per arrivare da qualche parte, sono persone che lì per lì non hanno nulla e poi riescono a lasciare un segno nella storia. Infatti il primo personaggio è Frida Kahlo. Frida Kahlo, ecco. Ma la cosa più bella è stata sì. l'idea della collaborazione con l'Argentina, perché comunque questi due mondi, l'Italia e l'Argentina, sono distanti, sono due paesi lontani, la lingua è diversa, simile ma diversa. E quindi abbiamo detto, vabbè, che facciamo? Proviamo, non proviamo? Abbiamo cominciato mail su mail, poi io non è che lo spagnolo lo conosco benissimo, però ho detto, vabbè, è una lingua che mi piace tantissimo e era pure un modo per provare anch'io e usare un pochino. E quindi quindi sono libri su supereroi, in realtà reali, viventi, persone che hanno vissuto realmente, certo. invece che le principesse che stanno nelle torri, i principi azzurri, che non si capisce esatto. che cosa vanno in giro a fare a cavallo così nei boschi. Esatto. Ecco. Infatti con i bambini diciamo sì. sempre, perché facciamo pure dei laboratori per questi libri, ai bambini chiediamo sempre, ma le principesse che cosa fanno? Puliscono casa? Vanno a fare la spesa? No, e le antiprincipesse invece? Le antiprincipesse fanno tutto, si sporcano le mani, sistemano, fanno e fanno qualsiasi cosa, faticano e poi arrivano da qualche parte. Eleonora, noi ti ringraziamo per Grazie. Questa originale iniziativa. Non sai quante battaglie in casa mia con mia figlia Viola sulle principesse, ma questo sarà il tema di un'altra della puntata. Prossima puntata. Salutiamo tutti, ringraziamo Andrea Piana, ha scritto insieme a noi il programma, Claudia Schiattone, Alessandro Longoni oggi in assistenza in redazione, inesauribile, e poi Roberta Frisani in regia. Quest'oggi mi stavo impappinando. Ciao a tutti, buona domenica da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.